Allora, conoscendo il suo percorso artistico, la sua presenza a Striscia Notizia a me è apparsa abbastanza strana, non le dirò di più, mi sembrava che si trovasse anche lei in una situazione strana, probabilmente non era a suo agio, c'era qualcosa che non funzionava, però volevo capire un attimo, è inciampato nel mezzo della carriera, cosa è successo? No, assolutamente, guardi, il fatto che non ci siano, adesso ne parlo tranquillamente perché sono passati tanti mesi, voglio dire, no, è stata una cosa tra l'altro molto signorile, molto garbata, tra i propri gesti comici, insomma, perché io sono stato chiamato da un mio che mi conosce da molto tempo, semplicemente perché lui voleva rinnovare in qualche modo Striscia e ho accettato soltanto per questo motivo, chiedendo la possibilità, diciamo così, di fare un po' di tirocinio per capire, diciamo, di come poter intervenire creativamente nel cambio, diciamo così, di immagine, di tutto. Insomma, io ho fatto delle trasmissioni in televisione, in special modo una che si intitolava La fabbrica dei sogni, molto tempo fa, nell'88, scusi, con Rai 3, e dove io feci una cosa estremamente innovativa che poi è stata ripresa da tantissimi personaggi televisivi, trasmissione vista da 700.000 persone a sera, perché Rai 3 all'epoca era vista da 700.000 persone a sera, insomma, però di fatto una trasmissione innovativa, l'unica credo dove il regista della trasmissione era anche il conduttore, in questo caso ero io, quindi trasmissione fatta con delle metodologie filmiche, con un maestro d'orchestra che era Patrizio Farinelli, poi un maestro, un pianista jazz, eccetera, che faceva le musiche in diretta, con uno storyboard completo della trasmissione, quindi un'ora e mezza di storyboard completo, vuol dire un montaggio fatto in diretta, quindi una cosa strepitosa, per così dire, per cui io, come dire, ho l'apprezzamento di alcuni dei vecchi guru televisivi, tra questi Antonio Ricci, proprio anche in virtù di questi esperimenti che io ho fatto proprio sul mezzo televisivo, che sono rimasti, le ripeto, insuperati da quel punto di vista lì, insomma, perché in effetti erano delle cose non facili da fare. Quindi quando Antonio si è rivolto a me ha chiesto una determinata cosa, cioè quella di rivoluzionare il programma. Io ho chiesto soltanto 3-4 puntate di assestamento per capire che cosa potevo fare, quindi le prime puntate io ero a disagio, semplicemente, ma le ero a disagio, le svelo un segreto, che nessuno sa, che mi sembra così stupido, che praticamente sembra una faccenda finta, ma insomma, io nelle prime 3 puntate, peraltro, non avevo neanche gli occhiali giusti, per cui dovendo leggere, io non avevo occhiali, cos'è? Poi cosa è successo però? Ho capito come funzionava, ho scritto 50 in palinsesto, è un possibile palinsesto per le altre 46-47 puntate che rimanevano, e ci siamo accorti molto lentamente che la mia proposta di rivoluzione, diciamo così, della trasmissione era incompatibile con i tempi di costruzione stessa della trasmissione. Quella è una nave in corsa che è difficile da fermare in pochi mesi. Quindi a quel punto esatto, diciamo, ecco. Ecco, questo è un bene, perché visto che si era parlato, il pubblico appunto l'aveva colto in maniera differente, qualcuno aveva parlato effettivamente di una sua rinuncia all'ultimo momento per chissà quali ragioni, qualcun altro invece aveva anche avanzato l'ipotesi che ci fossero stati problemi con Ricci, era per quello che... Ultima cosa, nella Striscia Notizia di oggi, come la vede dopo questa rinascita di cui si è parlato tanto in questi giorni?